in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani di Radio 24. Naturalmente, come potete immaginare, anche oggi le prime pagine sono tutte dedicate ai fatti di Parigi, alla cronaca di quello che è successo ieri e un po' alle anticipazioni di quello che succederà oggi con la grande manifestazione. Vi ricordo subito che qui a Radio 24 seguiremo, i colleghi di Radio 24 seguiranno proprio la manifestazione a partire dalle 3 e ci sarà anche un piccolo speciale già alle 8:15, quindi in massima attenzione da parte nostra appunto a seguire la cronaca. Spazio quindi sui giornali soprattutto alle riflessioni, le analisi ne avete probabilmente sentite, lette tante negli giorni scorsi e ancora qualcuna ve ne segnalo sicuramente oggi, perché a me è rimasto molto impresso quello che ha scritto Michele Serra giovedì sulla Repubblica. Ve lo rileggo perché io me lo sono ritagliato. E scriveva: il terrorismo, l'obiettivo del terrorismo è renderci diversi da ciò che siamo, o più spaventati o più cattivi o più disorientati. Se invece riusciamo in caso di terrorismo a rimanere uguali a noi stessi, allora non possiamo che vincere, come un fiume enorme e pacifico che sommerge ogni asperità malevola. E per questo appunto credo sia importante cercare di capire, cercare di, prima di giudicare o prima di farsi delle idee troppo così frettolose su quello che è accaduto. E allora dal Corriere della Sera il titolo: in marcia contro il terrore, la fotonotizia è quella di una delle tante manifestazioni spontanee che si sono svolte ieri a Parigi. La foto scelta dal Corriere è di quella che si è svolta a Nizza, impressionante questo fiume di persone lungo il lungomare di Nizza. Ma vi segnalo dal Corriere della Sera in particolare un'intervista di Stefano Montefiore a Marine Le Pen. Sapete che il Fronte Nazionale è stato di fatto escluso dalla manifestazione che ci sarà oggi, quella a cui parteciperanno diciamo la più ufficiale di tutti, quella a cui parteciperanno i capi di Stato e di Governo di tutto il mondo. E titola Stefano Montefiore: ci tengono ai margini ma così escludono un elettore su quattro. Questa appunto l'opinione di Marine Le Pen. Chiede Stefano Montefiore: quali sarebbero a suo avviso le buone decisioni da prendere? E Marine Le Pen risponde: la prima è la sospensione immediata di Schengen. Il trattato di Schengen, sapete, è parte delle regole dell'Unione Europea e stabilisce la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea. Sapete che quando per esempio un italiano o chiunque si reca in Francia non deve mostrare la carta d'identità come succedeva prima dell'entrata in vigore di Schengen. E allora risponde Marine Le Pen: per controllare chi entra e resta sul nostro territorio e impedire il ritorno di quelli che sono partiti a fare la jihad o ad addestrarsi, come è il caso di uno degli assassini di questi giorni. Poi togliere la nazionalità francese a chi ha il doppio passaporto e partecipa a operazioni terroristiche. Ce ne sono altre, ma la cosa più importante sarebbe capire l'entità della guerra che è stata dichiarata alla Francia dai fondamentalisti islamici. E non mi pare che i politici francesi lo stiano facendo, perché, e questo dice tutto, non uno ha pronunciato l'espressione fondamentalismo islamico. E poi chiede ancora Stefano Montefiore: giovedì nell'emozione dopo l'attentato a Charlie Hebdo ha evocato in un tweet l'opportunità di un referendum per stabilire la pena di morte. Non in un tweet, ho risposto alla domanda di un giornalista. La pena di morte fa parte del programma del Front National, da sempre. Noi proponiamo di dare al popolo la possibilità di scegliere tra pena di morte e ergastolo, ma ergastolo vero, non che dura 12 anni. Questa proposta è un altro modo di differenziarvi ancora una volta dagli altri partiti politici? E Marine Le Pen risponde: tutto ci differenzia dal resto della classe politica. C'è un altro, tra l'altro vi segnalo che il Corriere della Sera dal 15 gennaio pubblicherà un libro con tutte le vignette di Charlie Hebdo, quindi 300 vignette che appunto si potranno acquistare raccolte in un libro. Ma vi segnalo sempre dal Corriere della Sera un'intervista di Paolo Salom allo scrittore algerino Boualem Sansal, a 65 anni e dal 1992 condanna pubblicamente l'estremismo islamico e per questo su di lui pende una condanna a morte. Gli chiede Salom: ai musulmani viene oggi chiesto di denunciare le aggressioni, di parlare chiaramente contro la violenza, è giusto farlo? E Sansal risponde: io credo, e lo dico apertamente, che i musulmani debbano denunciare gli islamisti per salvare la loro religione, perché questi estremisti violenti stanno distruggendo l'Islam. La vera difficoltà per la comunità islamica è che le differenti interpretazioni del Corano sono trasversali rispetto alla società. Insomma, in una stessa famiglia ci sono fratelli schierati sui due fronti, quello moderato e quello radicale. Durante la guerra civile in Algeria la gente aveva paura di denunciare i membri del proprio clan. Taiwan, una situazione che può essere paragonata alle famiglie mafiose. Nessuno parla perché non si possono toccare i parenti e poi c'è la paura della vendetta e così arriviamo all'omertà. Vi segnalo sempre dal Corriere della Sera una conversazione tra Pierluigi Battista e Giuliano Ferrara, che forse l'avrete visto in televisione qualche sera fa dire con tutta la forza di cui è capace, anche appunto con urlando di fatto, che è stata scatenata una vera e propria guerra. Il titolo di questa conversazione è Il paradosso della fede, militanti non terroristi seguono il Corano, e scrive Pierluigi Battista. Marine Le Pen chiede della pena di morte, l'abbiamo visto proprio nell'intervista a Stefano Montefiori, e quello che risponde Giuliano Ferrara in questa conversazione è: senta, io detesto la famiglia Le Pen, detesto con tutto il mio cuore la destra francese con quel suo fondo sulfureo, gretto, venato di antisemitismo, ma sono così esasperato dall'ipocrisia che se dovessi scegliere andrei alla manifestazione della Le Pen piuttosto che sfilare in quella di Hollande, in cui ci si rifiuta di dire la verità sull'Islam. Che poi Ferrara, diciamo, e qui è chiuse le virgolette, quindi riprende Pierluigi Battista, che poi Ferrara, diciamo la verità, non è che lei in questi anni abbia mostrato di amare appassionatamente il mondo secolarizzato, irreligioso, laico, relativista. E Ferrara risponde: si sbaglia, il mondo libertario, libertino, liberale è il mio mondo, ma vorrei che restasse un mondo complesso in cui c'è l'autorità e anche la trasgressione, la disciplina e insieme la ribellione, un mondo delle differenze dove si può essere libertini e combattere l'orrore dell'aborto, stare nella modernità ma rifiutare la deriva disumanizzante della tecnoscienza. E sempre dal Corriere della Sera vi segnalo il pezzo forse che a me ha toccato di più, ed è quello di Amos Oz, un testo raccolto da Lorenzo Cramonesi. Il pezzo si intitola Il dolore delle donne separate dal mondo. Scrive Amos Oz: la mattina dopo lo scioccante massacro di giornalisti e vignettisti a Parigi, io speravo che ogni singolo giornale, ogni pubblicazione, ogni rete televisiva, ogni tipo di media del mondo avrebbe pubblicato e diffuso le vignette controverse per farle conoscere in tutti gli angoli della terra. Questa avrebbe dovuto essere la risposta appropriata a quel crimine tremendo. Tante persone oggi sono furiose con i musulmani, non dobbiamo però dimenticare che tutto questo ha prima di tutto a che fare con i fanatici e non con i musulmani. La piaga del XXI secolo non è l'Islam, bensì il fanatismo. Gli assassini di Parigi questa settimana hanno molto più in comune con i cristiani violenti e gli ebrei razzisti che non con i musulmani pacifici. Forse è arrivato il momento di smetterla di confondere il multiculturalismo e il politicamente corretto con l'assoluto relativismo morale. L'assassinio è un male assoluto, non un male relativo. E poi veniamo alla questione delle donne. Forse il problema più doloroso in molte società musulmane sono semplicemente i mariti. Intendo i mariti che obbligano le mogli a restare ignoranti, isolate e separate. Una donna ignorante ha molto poco da dare ai suoi figli piccoli. Un bambino che riceve poco dalla mamma nell'età prescolastica è quasi certamente destinato a restare molto indietro e spesso finisce per diventare una persona risentita, frustrata, persino violenta. Quest'ultima è probabilmente una delle questioni più penose che le società musulmane sono chiamate ad affrontare e risolvere. Sino a che ciò non avverrà, noi dovremo tracciare una chiara linea di distinzione tra pluralismo e sottomissione, tra tolleranza e arrendevolezza, tra la necessità di trattare in modo rigoroso contro i fanatici violenti e invece rispondere con fanatismo altrettanto isterico. E siccome, come dico sempre, poi alla fine sono i numeri quelli che uno dovrebbe sempre tenere presente quando affronta temi più o meno importanti, vi segnalo dalla pagina 39 del Corriere di Danilo Taino, che è lo Statistical Editor del Corriere della Sera, così viene definito, tutti i numeri proprio sul numero dei musulmani nel mondo. E scrive Taino: dal punto di vista demografico, la popolazione di religione musulmana non sta per conquistare il mondo, l'Europa, è però quella che cresce di più a livello globale, con un aumento dell'1,5% contro lo 0,7% della popolazione non musulmana. E ancora. Il primo fatto interessante riguarda la curva demografica. Nel 1990 si trattava di 1,1 miliardi di musulmani, il 19,9% del totale degli abitanti della Terra. Nel 2010 il numero saliva a 1,6 miliardi, 23,4% del totale. Sulla base degli andamenti demografici attuali, i musulmani saranno 2,2 miliardi nel 2030, cioè il 26,4% della popolazione mondiale. La prima pagina di Repubblica, anche qui la foto di una manifestazione, non di un fiume di persone come quella apparsa sul Corriere della Sera, ma di un gruppo di persone che tengono un grande striscione, Je suis Charlie. Il titolo principale, Il mondo a Parigi sfida la Jihad. In questo caso la Repubblica oggi ha dedicato parte della sua domenica, il supplemento domenicale, come vedremo magari dopo la pausa, proprio ai fatti di Parigi, con alternando articoli a illustrazioni di illustratori italiani o stranieri. Vi segnalo comunque la maca di Michele Serra di oggi, vi leggo le prime righe. Le immagini postate dalla coppietta Koulibaly Boumedienne mentre si addestra a sparare assomigliano non poco a quelle degli stragisti dei college americani, a quelle dei nazi alla Breivik, vi ricorderete quel neonazista che fece 77 morti su un'isola norvegese qualche estate fa, a quelle dei killer paranoici del mondo intero. Esiste, trasversale ai terrorismi, un narcisismo delle armi in pugno, qualcosa come credevate fosse solo il cretino della porta accanto, guardate qui invece che razza di impavido guerriero. E continua ancora la maca su questo, appunto, su questo narcisismo unito a chi è fanatico e a chi imbraccia le armi proprio per dare un'immagine di sé, appunto, di forte guerriero. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e anche oggi cercavamo un po' di scegliere alcuni dei commenti. Allora vi segnalavo la Repubblica che dedica quasi tutta il suo speciale La Domenica, appunto, della Repubblica ai fatti di Parigi, affiancando articoli a illustrazioni dei più importanti illustratori italiani o stranieri. Anche in questo caso vi segnalo un intervento di Michele Serra che è stato, insomma, partecipato e ha lavorato per tutti i supplementi satirici italiani, a partire da Tango e poi Cuore, e scrive: Non è dunque l'offendersi di fanatici musulmani, siano essi pochi o tanti, il vero scandalo. Ogni essere umano e ogni comunità hanno pieno diritto di considerarsi offesi. Lo scandalo di tale portata da configurarsi anche tecnicamente come una dichiarazione di guerra è la totale incapacità di quegli offesi di accettare la loro offesa come parte integrante, inevitabile, vitale del confronto culturale e della mediazione giuridica. Vuol dire, tout court, negare alla radice il confronto culturale e la mediazione giuridica. E vengono citati anche alcuni vignettisti molto famosi come Marianne Satrapi, che è nata in Iran ma poi vive in Francia. Ha pubblicato quella graphic novel, quel romanzo a fumetti intitolato Persepolis, dedicato appunto all'Iran. Lei, per esempio, ha detto: Non amavo tutto quello che facevano a Charlie Hebdo, ma amavo l'idea che avessimo una rivista così sovversiva. La gente ha il diritto di avere differenti punti di vista e di provocare. Se permetteremo che azioni del genere creino un clima di paura, avremo perso la nostra libertà. Oppure Art Spiegelman, che è americano, autore di Maus, che nel 92 vinse il premio Pulitzer. Fu il primo romanzo fumetti a vincere il più prestigioso premio letterario americano. A caldo ha dichiarato: A Charlie Hebdo furono gli unici a ripubblicare le vignette danesi su Maometto nel 2006 per ragioni assolutamente giuste. Gli altri che lo fecero volevano provocare i musulmani, ma per Charlie era parte della missione che si attribuivano, e cioè essere provocatori di pensiero. Moltissimi altri interventi, veramente vi consiglio di sfogliare queste pagine di Repubblica. La Stampa, naturalmente, anche qui il titolo è dedicato ai fatti di Parigi. La foto è quella dei fiori lasciati per le vittime davanti alla redazione di Charlie Hebdo. Ci sono moltissimi articoli. Il titolo principale è Parigi: i terroristi volevano una strage all'asilo ebraico. Questo è riferito ai fatti di cronaca di ieri. E poi vi segnalo un'intervista di Giacomo Galeazzi e Andrea Tornielli alle pagine 2 e 3 a Papa Francesco, che però non parla tanto dei fatti di Parigi quanto di questioni economiche, perché martedì sarà in libreria il libro pubblicato da PM, Questa economia uccide, con un'intervista esclusiva appunto sul capitalismo e la giustizia sociale. Poiché abbiamo sentito dire tante volte che alla base anche della crescita del fondamentalismo islamico in Europa c'è la povertà, c'è l'emarginazione economica, comunque il tema delle disuguaglianze economiche è sicuramente in qualche modo legato a tutto quello di cui stiamo parlando in questi giorni. La prima pagina del Sole 24 ore, sfida al nuovo terrorismo l'Europa in piazza Parigi. In questo caso la foto è quella di una delle tante persone che hanno già manifestato ieri a Parigi, una signora che mostra la mano su cui c'è l'hashtag Je suis Charlie. Vi segnalo in particolare molto interessante un articolo di Alberto Negri che parla della Yemen Collection di Al-Qaeda, perché sapete che il terrorista, quello che ha ucciso al supermercato Kasher, si era addestrato in Yemen. C'è sempre sulla questione sui retroscena di come sia possibile che questi giovani europei abbiano questo training militare, altre due inchieste, una sulle rotte delle armi dai Balcani di Gianandrea Gaiani, che spiega come armi da guerra come quelle in possesso dei fratelli Kouachi siano in realtà sempre più diffuse in Europa. Il flusso è cresciuto dopo le guerre balcaniche degli anni 90. Trovate questa inchiesta a pagina 2. E poi un'altra questione di cui abbiamo detto bisogna parlare, che è quella di tutti i focolai di fondamentalismo islamico che ci sono nel mondo, uno è sicuramente in Libia. E allora Roberto Bongiorni ci racconta appunto il califfato della vicina Libia. Mentre a Parigi i riflettori erano puntati sulla caccia ai terroristi franco-algerini, in Libia un gruppo jihadista giustiziava due giornalisti tunisini. E questo lo trovate a pagina 5. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore, perché purtroppo ci sono tanti altri argomenti di cui parlare, purtroppo o per fortuna, e da qui oggi Vittorio Carlini sceglie l'azienda BB Biotech, che si focalizza sull'oncologia come ogni domenica. E come sempre vi dico, Vittorio Carlini, che lavora alla redazione di Finanza, si concentra sul bilancio di una singola società quotata e cerca di vedere perché o perché no conviene investire e comprare azioni di quella società. La prima pagina del Messaggero, il mondo in marcia a Parigi. Anche qui una foto tratta dalle molte manifestazioni di ieri e un'intervista al ministro Alfano che spiega meglio quali saranno le prossime mosse del Ministero dell'Interno. Quindi l'Europa sblocchi i controlli sulle liste dei voli, questo è il titolo scelto. Naturalmente, come potete immaginare, su tutti i giornali ci sono tantissimi ricordi di Francesco Rosi, scomparso ieri a 92 anni, il grandissimo regista. Sul Messaggero per esempio lo ricorda un altro regista, Mario Martone: addio a Francesco Rosi, padre dei film d'inchiesta. La prima pagina dell'Avvenire, orrore, paura e fermezza, c'è naturalmente tutta la cronaca, ma l'Avvenire è anche l'unico giornale che dà tanta evidenza fin dalla prima pagina a quello che è successo ieri in Nigeria, dove una bambina kamikaze ha fatto una strage. E quindi sempre per ricordarci appunto che il fondamentalismo islamico è ramificato, è a macchia di leopardo, ci sono focolai ovunque. E come tanti commentatori hanno detto, uno dei problemi anche nel contrastare il fondamentalismo islamico è che non c'è una vera e propria gerarchia, ma ci sono appunto tanti focolai in giro per il mondo. C'è un altro approfondimento, come sempre l'Avvenire tiene accesi i riflettori su questioni che troppo spesso ci dimentichiamo quando cessa la cronaca stretta. In questo caso è Haiti, dove 5 anni fa, ricorderete, ci fu un sisma devastante e ieri, tra le cose che ha detto ieri Papa Francesco, è stato sosteniamo Haiti. Papa Francesco, che ha riacceso in questi mesi i riflettori su una tragedia a rischio di dimenticatoio, ha fatto ieri mattina il punto sul percorso di rinascita dopo il sisma che il 12 gennaio 2010 causò, ricordiamo questa cifra, 220.000 vittime, 300.000 feriti e 1,5 milioni di senza tetto. A distanza di 5 anni naturalmente la ricostruzione non è terminata, ma ci sono ancora tantissime persone, anche occidentali, impegnate nell'aiutare appunto Haiti, la popolazione locale. Il titolo del giornale ha una notizia che non troviamo sugli altri quotidiani, è la storia di Maria Giulia Sergio, mi fa orrore l'idea che si chiami come me, quindi ho cambiato il nome, è stato un lapso, scusate. Questa signora si chiama Maria Giulia Sergio, si è convertita all'Islam, adesso si chiama Fatima. Per il Viminale è una terrorista, infatti è una di quei quattro, Fatima è tra i, ci raccontano Fausto Biloslavo e Luca Fazzo, è una di quei quattro foreign fighters italiani segnalati dal Viminale. Convertita, firmò un appello pro velo con Del Neva, l'islamista genovese morto in Siria, e tra l'altro anche la madre sembra sulle stesse posizioni della figlia, ha dichiarato: Allah è grande, mia figlia non è in Siria. Qui il commento è di Vittorio Feltri, intitolato Un divario destinato a diventare voragine, divario naturalmente tra l'Occidente, diciamo, l'Occidente cristiano, possiamo dire, o così dice Vittorio Feltri, e invece l'Islam, il fondamentalismo islamico. Il titolo di Libero, Hanno il salam sugli occhi. E vabbè, anche questa forse è satira, ironia, non lo so, non mi piace particolarmente, però l'idea, naturalmente il concetto lo capite perfettamente, è una critica molto dura, come certa sinistra continui a fare tutta questa distinzione tra fondamentalisti, tra islamici moderati e islamici fondamentalisti. Il titolo, l'occhiello, la bufala sinistra dell'islamofobia, Renzi dà del cialtrone a chi non si adegua alla teoria dell'accoglienza e dell'integrazione, in riferimento è alle parole di Salvini che Renzi ha criticato. Non ha capito nulla, scrive Libero, sono gli islamici che in molti casi non vogliono integrarsi ma pretendono di sottometterci e se non ci riescono ci uccidono. Vogliamo svegliarci e l'articolo è poi del direttore Maurizio Belpietro. Il Fatto Quotidiano, anche l'islam estremista contro i macellai di Parigi. Il riferimento è al fatto che ieri persino appunto quello che è sicuramente definibile Islam estremista, cioè gli Hezbollah, quindi gli Hezbollah iraniani e anche Hamas hanno condannato il massacro di Charlie Hebdo, dicendo la differenza di opinioni non può giustificare l'omicidio. Subito dopo la pausa per il traffico vi leggerò anche una parte dell'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, monopolizzate naturalmente dai fatti francesi. Vi leggo una parte dell'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, si intitola I servi furbi ed è ancora sulla questione del diritto di satira e comunque sul diritto anche di dire che può non piacere la satira che si faceva su Charlie Hebdo, non è quello il punto. Scrive Travaglio: ciascuno è libero di ritenere sbagliata o anche repellente una vignetta, un articolo, un libro, un programma TV, un film. Ciò che nessuno può fare è proibirli o chiuderli, come si è fatto ripetutamente in Italia, in nome di un limite che nessuno ha il diritto di fissare, cantava Lucio Dalla. È chiaro, il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce, e come pesce è difficile da bloccare perché lo protegge il mare, come è profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, chiuse le virgolette dalla citazione di Dalla. Conclude Travaglio. A me personalmente non verrebbe mai in mente di pensare o di scrivere che, aperte virgolette, il Corano è merda, come dice una delle vignette incriminate di Charlie Hebdo. Perciò, se ci arrivasse una vignetta così gratuita sul Corano, sul Vangelo, sul Talmud o sul libro sacro o sul simbolo di qualsiasi altra religione, anche noi che ospitiamo più satira di tutti gli altri, ci penseremmo un bel po' prima di pubblicarla. Ma appunto questo è un altro discorso, come poi continua a spiegare, a argomentare Travaglio a pagina 16. Dalla Gazzetta dello Sport, vabbè, la cronaca delle partite di ieri, ma soprattutto vi segnalo alla pagina 37 la mobilitazione anche dello sport, quindi sulla neve, nell'oceano, con le matite di Garcia, anche lo sport è Charlie. Appunto, il riferimento è anche a tutti gli sportivi che ieri hanno in qualche modo, in occasione di partite o altri eventi sportivi, indossato la maglietta Je suis Charlie o comunque dimostrato solidarietà. Il manifesto, omaggio francese, la foto in questo caso è di una folla enorme. Non a Nizza come per il Corriere, ma a Marsiglia, perché sono state appunto tante le manifestazioni ieri. E anche qui numerosi articoli, e poi vi segnalo il ricordo di Francesco Rosi di Luciana Castellina, La passione militante. Abbiamo pochissimo tempo, un po' per vedere anche gli altri argomenti, allora vi dico velocemente dal Corriere la meta del 2015, Milano, ci racconta pagina 26 Elena Tebano, perché molti sono i giornali, i quotidiani, i media intorno al mondo che stanno segnalando come Milano può essere una meta interessante in Italia nel 2015, in particolare naturalmente per l'Expo che inizierà il 1 maggio. Dalla Repubblica un approfondimento di Alberto D'Angerio sul piano dell'Unione Europea sulla flessibilità, gli investimenti fuori dal patto, come sempre ha invocato in questi mesi, per esempio Sebastiano Barisoni in Focus Economia, meno tagli a chi fa le riforme. Dal Sole 24 Ore un approfondimento sull'assenteismo, il Centro Studi di Confindustria ha stimato che l'assenteismo nella pubblica amministrazione costi ogni anno 3,7 miliardi. Per le imprese pubbliche in crisi, un approfondimento di Carmine Fotina che ci racconta come sia pronto il fondo della Cassa Depositi e Prestiti e privati per Ilva e altre industrie importanti nazionali in crisi. Un approfondimento di Luca Davi e Moira Longo a pagina 9 del Sole 24 Ore. Ecco chi ci guadagna con il mini euro. E infine un approfondimento dalla prima pagina di Imprese e Territori di Cati Mandurino da Venezia sulla questione delle grandi navi. Sapete che il TAR ha bloccato la decisione con la quale le grandi navi erano state escluse alle grandi navi era stata vietata la possibilità di entrare troppo vicino a Venezia. Ora la questione è tutta incerta e quindi il titolo: dopo la sentenza del TAR che annulla le limitazioni all'ingresso in laguna, gli operatori sono costretti a ripianificare i viaggi. E qui il grande rischio che spesso c'è in Italia per le aziende, l'incertezza legata appunto a questi rimbalzi in tribunale delle varie sentenze. Ci tengo però, prima di dare la pausa, dare la linea al GR, poi vi ricordo che subito dopo il GR delle 8 un mini speciale sulla Francia e poi ancora dalle 3 in poi invece un maxi speciale di Radio 24 con la diretta dalla manifestazione che si terrà a Parigi. Quindi vi dicevo i supplementi della domenica. Quello del Sole 24 Ore, cominciamo come sempre da questo, che la copertina è dedicata a due nuovi libri, due nuove edizioni dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Salvatore Silvano Nigro ci racconta come queste due edizioni siano ottime, ci restituiscano tutte le sfumature dei Promessi Sposi, ma proporli insieme o meno alla Colonna Infame, che è un'altra grande opera di Manzoni, fa la differenza. Vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, come sempre, che oggi si intitola Prendere e lasciare. La citazione è questa: la prima parte della vita è tutta un prendere, la seconda parte della vita è tutta un lasciare. A Milano ci vedevamo ogni anno, quasi come un appuntamento fisso per parlare di cose della mente e cose del mondo. Questa frase è il sottotitolo di un libro di aforismi e riflessioni segnato da un ammiccamento evangelico: non date le parole ai porci. Come è noto, Gesù parla di perle e le gemme più preziose sono proprio le parole vere. Sto parlando di Cesare Viviani, uno dei migliori poeti, ma non solo, perché è anche saggista e psicanalista contemporanei. Tra le centinaia di detti e pensieri ne ho scelto uno a caso. È una folgorante sintesi del vivere nei suoi due movimenti capitali, il prendere iniziale e il lasciare finale. La sapienza indiana invece introduceva quattro stagioni analoghe: l'imparare, l'insegnare, lo stare nel bosco, la sapienza silenziosa della coscienza, l'essere mendicanti perché forza, intelligenza, bellezza alla fine ci lasciano. Sappiamo seguire questi ritmi vitali. E poi naturalmente la rubrica settimanale del direttore Roberto Napoletano, direttore di Radio 24 del Sole 24 Ore, oggi è dedicata a quella che lui definisce una cartolina da Cerignola all'Italia di oggi, e ci racconta come abbia ricevuto appunto una cartolina che lo avvisava della morte di Baldina Di Vittorio, figlia di Giuseppe Di Vittorio, il più carismatico dei leader sindacali italiani. Glielo raccontava Dorella, la sorella di Baldina, una signora che abita a Cerignola, e ripercorreva un po' la figura sia di questa donna eccezionale sia del suo padre altrettanto eccezionale. E allora scrive Roberto Napoletano: questa cartolina da Cerignola è così antica e così straordinariamente nuova, significa tante cose, bisogna solo avere voglia di reggere e di ascoltare. Del domenicale naturalmente parlerà anche Alessio Maurizi, in Si può fare, anche collegandosi con Armando Massarelli, il direttore del Domenicale. Vi segnalo comunque una bella recensione di Chiara Valerio al libro di Hulbeck, lo scrittore che ha pubblicato molti libri controversi e adesso pubblica questo Sottomissione, che esce in Italia il 15 gennaio. C'è anche una recensione proprio del libro di Pietrangelo Buttafuoco. Il libro, come sapete, è ambientato nel 2022, si immagina una società a guida musulmana. Ora lo scrittore è sotto scorta, probabilmente ha già anche lasciato la Francia, e dice io non mi sento responsabile comunque della radicalizzazione dell'Islam, io sono solo uno scrittore, un romanziere. Dalla Repubblica vi segnalo la copertina, oltre a tutto lo speciale di cui abbiamo parlato prima dedicato ai fatti della Francia, un interessante articolo intitolato L'artista manager. Sarebbe cambiata molto la figura dell'artista, addio genio solitario, oggi le opere in mostra o battute all'asta sono per lo più il frutto di imprenditori della creatività attenti al marketing e al pubblico di clienti, una questione molto dibattuta negli ultimi anni. Poi un'intervista della serie, quella bellissima di Antonio Gnoli, delle lunghe interviste della domenica, oggi è il personaggio scelto è Ferdinando Scianna, il grande fotografo, che dice dei fotografi: siamo ladri di realtà in attesa dell'istante in cui Dio fa capolino. E tra l'altro proprio alla fotografia è dedicata anche la copertina di Macro, il supplemento culturale del Messaggero, e il titolo titolo è Quando le foto fanno la storia e lo spunto di cronaca sono gli 80 anni dell'Associated Press, del servizio fotografico dell'Associated Press, cioè della parte dell'agenzia di stampa Associated Press americana che si occupa di archivi, e nei suoi archivi appunto c'è un mondo di immagini. Sempre dal Messaggero un articolo molto divertente, definito proprio un fenomeno da Ilaria Ravaino, che ne scrive da Berlino: se il vinile batte l'iPod. Sono 55 milioni di dollari che fruttava il mercato mondiale del vinile nel 2008, ma nell'ultimo anno sono aumentate del 50% l'aumento delle vendite appunto dei dischi in vinile, per esempio in Inghilterra. La copertina della lettura del Corriere, oggi, sapete, ogni settimana è affidata a un artista. Questa settimana è affidata a Santi Mois, moltissimi gli articoli all'interno. Vi segnalo in particolare un dibattito che prende spunto da molti libri pubblicati di recente di Luisella Battaglia, che è una docente di filosofia morale e bioetica all'Università di Genova, e il tema trattato è quello dei diritti degli animali. Gli animali vanno a caccia di diritti, il titolo, dai primi passi nell'illuminismo al contrasto tra Garibaldi e Pio IX, e ora le istanze dei morali dei filosofi trovano riscontro nelle sentenze. L'infografica, sapete, sono un po' appassionata di questi temi di visual data, oggi a pagina 9 della lettura è dedicata al potenziale economico della cultura. La cultura si mangia e fa tanto bene ai conti, è appunto un grafico che lo dimostra. Parlavamo delle stagioni della vita, ieri forse avrete letto la bellissima intervista di Gian Antonio Stella a Ermanno Olmi sul Corriere. Oggi Alessandra Farca si intervista un altro grande vecchio della cultura mondiale, così come Ermanno Olmi, anche se è italiano, è Harold Bloom. Il titolo dell'intervista è Dio è un personaggio letterario. A casa del più celebre critico del mondo, dove tiene ancora, qui tiene ancora corsi per pochissimi allievi, senza mollare la presa sul mondo. Harold Bloom crede nei classici e nella poesia. È nato nel 1930, quindi insomma anche lui ha una certa età ormai, e dice: mi resta poco tempo, leggo e rileggo i giganti. L'ultimissima segnalazione che ho il tempo di farvi è da Alias, il supplemento domenicale del Manifesto, che è dedicato a Le Corbusier, perché è appena uscito un libro su di lui, e questo libro ripercorre un po', e la recensione stessa lo fa, la vita di questo grande architetto, considerato un po' il fondatore dell'architettura modernista. Era l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, anzi sono già un po' in ritardo, come dice Peter Bescapè in regia. Vi ricordo gli speciali dedicati ai fatti di Francia alle 8:15 e poi a partire dalle 3. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.